24, i gialli della storia. Mi primo sogno è giocare nel mondiale e il secondo è salire campione. In Argentina Maradona è un idolo, semplicemente un idolo. Chiedete in giro. Era incredibile, incredibile. Era veramente un talento. Maradona è il dio del pallone. Un dio concreto, tangibile. Solo che è un dio imperfetto. Gli dèi non si drogano. Io ho fatto i miei errori, ho pagato, ma il pallone resterà sempre una cosa pulita. Ho fatto i miei errori, ho pagato, ma il pallone resterà sempre una cosa pulita. Con queste parole, nel novembre del 2001, Diego Armando Maradona, in lacrime, ha detto addio al calcio giocato. Parole di una stella oscurata, di un eroe tragico che ha saputo sconfiggere povertà, diffidenza e sfortuna per arrivare a vincere tutto, prima di imboccare troppo presto il viale del tramonto. Poi, il giorno del suo 48esimo compleanno, dopo aver rischiato più volte di morire per gli eccessi di cibo, di alcol, di droga, è sceso di nuovo in campo, diventando il commissario tecnico della nazionale argentina. Quella nazionale che ha portato alla vittoria del Mondiale dell'86 con le sue magie e con la sua fantasia. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia, con le testimonianze dei suoi colleghi e dei suoi amici che gli hanno vissuto accanto nel bene e nel male. Giugno 1986. L'Argentina diventa campione del mondo di calcio. La squadra è capitanata dal più grande giocatore del mondo che ha realizzato il gol del secolo. Il suo nome è Diego Armando Maradona. Meno di 20 anni più tardi, la televisione argentina mostrerà un idolo obeso, psicologicamente instabile e cocainomane. Nella capitale argentina, Diego Armando Maradona è un'icona. Un'icona laica, vivente. 18 aprile 2004. Diego Maradona viene ricoverato d'urgenza per una grave crisi cardiaca dovuta all'uso prolungato di cocaina. In meno di 48 ore, l'ospedale si trasforma in meta di pellegrinaggio per i tanti fan che lo venerano. Maradona è il dio del pallone, un dio concreto, tangibile, che quando ce l'hai di fronte non smette di essere un dio. Prima metà del Novecento. L'Argentina è una nazione molto ricca. La sua capitale, Buenos Aires, una città formidabile, raffinata, con un forte carattere europeo. Ma lontano dai campi da polo e dalle grandiose opere architettoniche si estendono misere baraccopoli. È in uno di questi ghetti che il 30 ottobre 1960 nasce Diego Armando Maradona. In cambio della promessa di andare a scuola, Diego viene concesso di giocare nella formazione giovanile dell'Argentinos Juniors, un modesto club di Buenos Aires, ma pur sempre un'occasione per fuggire dalla miseria di Villa Fiorito. 1976. A soli 15 anni Maradona è considerato talmente bravo che viene fatto esordire in prima squadra. Ancora ricordo quello che gli dissi. Diego, appena prendi la palla, prova a fare il tunnel all'avversario. Così fece. Con l'Argentinos Maradona gioca 166 partite. All'età di 19 anni ha già segnato 100 gol. Diego, con la squadra dell'Argentinos Juniors, è stato veramente straordinario. Straordinario. Era un club piccolo e modesto, senza campioni. Totalmente privo di campioni. Nessuna stella. Ma la fortuna è stata quella di avere Diego in squadra. E questo ci ha permesso di arrivare secondi in classifica. A 16 anni Maradona debutta nella nazionale argentina. Ma è un debutto amaro. Diego deve sopportare la cocente delusione di essere escluso dalla squadra di César Menotti, che vincerà il mondiale del 1978. Come ricompensa, nel 1979, Maradona viene chiamato a guidare la squadra che vincerà la finale della prima Coppa del Mondo giovanile in Giappone. Ormai in Argentina sta diventando un eroe nazionale. 1980. Maradona è troppo grande per restare all'Argentinos e passa al Boca Juniors, un'importante squadra di Buenos Aires, di un quartiere operaio a ridosso del Porto Vecchio. È l'inizio di un rapporto straordinario. Per la partita di addio all'Argentinos viene scelta addirittura la bombonera del Boca. Per i tifosi, Diego è un idolo con cui identificarsi. E Diego ama il club con la passione del tifoso. Nel 1981 Maradona regala al Boca il primo scudetto dopo 5 anni. Ormai è una delle risorse più preziose dell'Argentina calcistica. Pelé e Cruyff sapevano usare entrambi i piedi e colpivano anche di testa. Cose in cui Diego non era fortissimo, ma il suo sinistro era talmente eccezionale che è diventato lo stesso il migliore del mondo. Era inevitabile che Maradona se ne andasse all'estero, visto che l'economia argentina era decisamente già in declino. Sin da quando ha 16 anni, Maradona è tenuto sotto osservazione da uno dei club europei più prestigiosi. Ricco e potente, il Barcellona firma un contratto con il Boca e porta il giocatore in Spagna. Al trasferimento di Diego Armando Maradona si oppose addirittura il governo argentino, Videla e l'ammiraglio Lacoste. Dissero che Maradona era troppo importante per il paese e che se ne sarebbe potuto andare solo dopo i mondiali di Spagna del 1982. Ma per l'Argentina i mondiali di Spagna sono un disastro. Il nuovo astro nascente si fa espellere contro il Brasile per un brutto fallo. Poco dopo, i detentori del titolo tornano a casa. Alcuni dirigenti del Barcellona cominciano a preoccuparsi per il carattere bizzoso del loro investimento da 7 milioni di dollari. La sua casa diventa tema di leggende e dicerie. Maradona ha chiamato da Buenos Aires cuochi, guardie del corpo, parenti e amici. In quel periodo iniziarono a circolare voci poco simpatiche sul comportamento del clan Maradona. Credo fondamentalmente perché a Barcellona alcuni lo consideravano un sudaca, un termine spregiativo con cui gli spagnoli, non tutti, ma alcuni, indicano i sudamericani. Il Barcellona sopporta le bizzarrie di Maradona anche perché spera che quel campione sia decisivo per battere i rivali di sempre, quelli del Real Madrid. Ma in realtà quell'anno la squadra non vince né il campionato né le competizioni europee, ma per 2 stagioni i catalani possono dire che il miglior giocatore del mondo indossa la loro maglia. . 24 settembre 1983, in una partita contro l'Atletico Bilbao, il mondo di Maradona va in pezzi. Nel secondo tempo un terrificante fallo di Andoni Goicoechea gli disintegra la caviglia sinistra. Dopo l'infortunio per il fallo di Goicoechea, per Maradona il recupero fu molto difficile. Non poteva allenarsi, passava molto tempo a letto e dall'Argentina erano venuti a stare da lui degli amici poco raccomandabili. Alla fine si creò una situazione tale per cui alcuni dirigenti pensarono che sarebbe stato meglio cedere il grande campione. Madrid, 5 maggio 1984. L'ultima apparizione di Diego con il Barça avviene davanti ai Reali di Spagna per la finale della Copa del Rey. L'incontro con il Bilbao è occasione di uno sgradevole episodio che convince Maradona che l'avventura spagnola è finita. Ricordo che uno dei giocatori del Bilbao lo chiamò sudaca, sporco argentino. È stata quella la scintilla che ha fatto scatenare la rissa. I dirigenti del Barcellona assistono impotenti ed inorriditi, ma ormai è chiaro che il rapporto tra Diego e il club è finito. Travolto dalle polemiche, per la seconda volta in 3 anni il giocatore lascia la Spagna pieno di amarezza e in serie difficoltà economiche. La sua destinazione? Napoli. Nonostante la sfortunata esperienza in Spagna, Maradona continua ad essere uno dei giovani giocatori più famosi del mondo, ambito da sponsor e pubblicitari. Mi ricordo che ad un certo punto, per lo sfruttamento dell'immagine di Diego, ricevemmo un'offerta di 100 milioni di dollari. Il problema però è che volevano che prendesse la cittadinanza degli Stati Uniti. Per Maradona prendere la cittadinanza americana è impensabile. Messico 1986. Per Maradona è la consacrazione definitiva con la nazionale argentina nei quarti di finale contro l'Inghilterra. Al 51esimo minuto, Maradona beffa l'Inghilterra. Non bisogna mai dimenticare da dove viene Diego. Diego è cresciuto in un ambiente dove è necessario arrangiarsi tutti i giorni. Per sopravvivere devi aguzzare l'ingegno. Per lui giocare contro l'Inghilterra era come giocare con la squadra di un quartiere rivale. Continuava a giocare come se stesse ancora a Villa Fiorito. 5 minuti dopo aver segnato il gol più discusso della storia del calcio, Maradona realizza quella che probabilmente rimane la rete più famosa della sua carriera. Il secondo gol di Diego è stato l'episodio più emozionante di tutta la mia carriera professionale. È stato il momento più perfetto e sublime della storia dell'Argentina. Io penso che gli argentini non abbiano mai condiviso una gioia collettiva così grande o un orgoglio comune come quando Diego segnò quel gol. 29 giugno 1986. L'Argentina vince i mondiali del Messico. Al rientro in patria i giocatori sono accolti come eroi. Anche se eravamo tutti campioni del mondo, sapevamo che Diego Maradona era diverso da noi. Era speciale. La gente mostrava il suo affetto soprattutto a lui per quello che aveva saputo fare in quel torneo. Dopo quello straordinario discusso mondiale per Diego Armando Maradona comincia l'avventura italiana nel club con il tifo più viscerale che si possa immaginare, dove idolatrare il giocatore più famoso del mondo è scontato e inevitabile. Maradona approda a Napoli. Maradona viene presentato ufficialmente ai tifosi del Napoli, fino a quel momento un club continuamente mortificato dalle più blasonate squadre del nord. Ma grazie a Maradona il Napoli riuscirà ad umiliare squadre come il Milan, la Juventus, la Roma. 10 maggio 1987, Diego Maradona regala al Napoli il primo scudetto della sua storia. Tipico di Napoli è lo straordinario miscuglio tra religione e calcio. La Madonna e Maradona diventavano interscambiabili. La venerazione popolare passava con estrema facilità da San Gennaro a San Diego. Ancora oggi a Napoli Maradona è un mito, una leggenda. Negli anni Ottanta, tuttavia, la venerazione dei tifosi per lui diventa una vera e propria ossessione che lo rende di fatto prigioniero della città. È un idolo delle folle, ma anche gli idoli hanno i loro problemi. Non poteva andare fuori liberamente perché la gente gli andava subito addosso, perché per loro, che devo dire, era una cosa extraterrestre. 1988. È questo, a quanto si dice, l'anno fatale. Pieno di soldi e idolatrato dalla città, Maradona non riesce a sottrarsi alle attenzioni della criminalità organizzata. Una volta trovai il coraggio di chiedere a qualcuno che rapporti aveva Diego con la camorra. La risposta è stata: qui a Napoli siamo gente discreta, non facciamo mai troppe domande. 3 maggio 1989, il Napoli vince la Coppa UEFA. Un anno dopo arriva un secondo scudetto. All'orizzonte, tuttavia, cominciano ad addensarsi nubi minacciose. Ci fu un episodio che ebbe un forte impatto sull'immagine di Diego, e cioè la nascita del figlio napoletano. Si venne a creare una situazione pesante che Diego non riuscì a gestire nel modo migliore. La relazione tra Maradona e Cristina Sinagra e la successiva nascita di un figlio sono i primi segnali di un'inversione di rotta nell'atteggiamento dei napoletani verso il loro idolo. Il 1990 è anche l'anno del Mondiale, che stavolta si terrà nella sua nuova patria di adozione, ma Italia 90 segnerà l'ennesima svolta nella fortuna di Maradona. Per via di tutti gli infortuni che aveva subito, ai Mondiali del 90 Diego era un altro giocatore rispetto al 1986. Se arrivammo secondi, fu solo grazie alla sua capacità di sopportare il dolore. Nonostante la vicenda Sinagra, a Napoli il capitano argentino è ancora molto amato. Il 3 luglio la semifinale tra Italia e Argentina si gioca al San Paolo di Napoli. La nazionale sudamericana viene accolta tra gli applausi. Mentre attraversavamo Napoli, c'era una folla enorme ad accoglierci. Sembrava di essere a Buenos Aires. Tutti volevano vedere Maradona. Ma quando Goico Echea parla un rigore all'Italia, i tifosi decidono di privilegiare la nazionale al Napoli. D'improvviso l'Argentina diventa il nemico. Alla finale riuscimmo a compiere un'impresa storica. Grazie a noi migliaia di italiani vennero allo stadio sventolando la bandiera della Germania. Roma, Stadio Olimpico, 8 luglio, la finale di Italia 90. All'inno nazionale l'Argentina viene sonoramente fischiata. Per Maradona quei fischi sono come un tradimento. Quella finale fu una delle partite più brutte della storia del calcio. L'Argentina era rimasta in 10, ma prese il gol quando mancavano soltanto 4 minuti ai tempi supplementari e a quel punto poteva succedere veramente di tutto. Per Diego fu una delusione enorme, difficile da digerire. La delusione per la sconfitta in finale mondiale d'Italia 90 è il segno di una parabola discendente che colpisce Maradona e lo trascina in un baratro terribile che segnerà la sua carriera e la sua vita. 17 marzo 1991. Al termine di Bari-Napoli, Maradona risulta positivo alla cocaina. Poche settimane dopo lascia Napoli. Tornato a Buenos Aires, viene fermato. Anche nel suo appartamento viene trovata della cocaina. Maradona aveva cominciato a fare uso saltuario di cocaina già a Barcellona, ma è in Italia che divenne quasi un'abitudine. Secondo me, il declino di Diego, dal punto di vista umano, è cominciato lì. La cocaina è pericolosa per chiunque ne faccia uso, anche la prima volta. Gli atleti, per giunta, in quanto tali, sono particolarmente a rischio, perché il loro fisico è sempre sottoposto a grandi sforzi e questi sforzi possono senz'altro provocare un aumento del battito cardiaco e di conseguenza sono maggiori i rischi di una morte improvvisa per ictus o per infarto cardiaco. Maradona viene squalificato per 15 mesi, ma ora la sua tossicodipendenza è di dominio pubblico e Diego può chiedere aiuto ai medici. Diego era ovviamente molto depresso perché gli toglievano quello che amava più di ogni altra cosa, giocare a calcio. Quella squalifica fu un colpo terribile per lui. Vorrei far presente che quando fu squalificato la prima volta in Italia per il fatto della droga, io intervenni dopo un po' di tempo. Trattai con la FIFA e con il Napoli. Riuscii ad ottenere il permesso della FIFA per farlo giocare nel Siviglia prima che finisse il periodo di squalifica. In Argentina, Maradona ritrova anche Carlos Bilardo, uno dei pochi tecnici di cui, nella sua carriera, si è sempre fidato. Per quanto sia ancora capace di giocate ispiratrici, al Siviglia Maradona resiste solo per 29 partite. Salta agli allenamenti ed è perseguitato dalla stampa locale, avida di scandali. Quando Maradona, già imbottito di antidolorifici per poter giocare, reagisce ad una sostituzione, è l'epilogo. È il 13 giugno 1993. A Diego gli antidolorifici venivano somministrati continuamente, non solo prima delle gare, ma anche durante. E nell'intervallo gli facevano un'altra iniezione per tenerlo in campo. Ha sempre avuto problemi con il piede, per non parlare dei difensori che si accanivano contro di lui. Ottobre 1993. Maradona torna in Argentina per giocare con i Newell's Old Boys. Sarà una parentesi. Nel febbraio 94 i giornali cominciano a chiedersi se ce la farà a giocare i mondiali in America. Intanto, in vista del suo ultimo mondiale, si rifugia nella tranquillità della campagna dove si allena insieme a Fernando Signorini. Alla vigilia della Coppa del Mondo, negli Stati Uniti, a dispetto di tutto, Maradona sembra essere tornato ai tempi migliori. Boston, 25 giugno 1994. Dopo una partita del girone eliminatorio contro la Nigeria, Maradona viene sorteggiato per il controllo antidoping. È positivo, stavolta non alla cocaina ma ad un integratore alimentare che figura nell'elenco della FIFA tra le sostanze proibite. Mentre aveva ammesso l'uso di cocaina, Maradona ha sempre respinto l'accusa di usare sostanze per migliorare il rendimento. Ciò nonostante la sua carriera al mondiale è finita. Io non ho bisogno di prendere medicine per giocare a calcio. Perché dovrei prendere medicine per giocare a calcio? Maradona cerca aiuto a Cuba, lontano dal clamore e dalle pressioni. Rispetto al calciatore mito che è stato in passato è irriconoscibile. Maradona non è andato a Cuba per motivi ideologici, ma perché ha capito che Fidel Castro l'avrebbe protetto. A Cuba i giornalisti non lo infastidivano, anzi tutti lo trattavano bene. In Castro, Maradona ha trovato una figura paterna. Dopo il periodo di permanenza a Cuba, Maradona torna in Argentina. Sa che la sua carriera di calciatore è finita e i suoi tentativi di allenatore non hanno i risultati sperati, anche se riesce a guidare per poco più di un anno la nazionale argentina senza risultati di rilievo. Se la storia del campione si è conclusa ingloriosamente, il mito che lo ha caratterizzato continua ancora oggi e l'Argentina e Napoli lo osannano ancora per le emozioni che ha regalato a tutti. 10 novembre 2001. La partita di addio. Diego Armando Maradona dà un saluto commosso al pubblico del Boca. Nato tra le baracche, egli è diventato un fenomeno internazionale. Molte sono le cause della sua caduta: le debolezze del carattere, le persone di cui si è circondato, i cattivi consiglieri e un'adulazione che non è stato capace di gestire. Ciò nonostante, ancora oggi, gli argentini lo venerano e vedono in lui il più grande calciatore di tutti i tempi. E questo, probabilmente, durerà per sempre. Il fatto che un uomo commetta uno sbaglio non significa che il gioco del calcio sia marcio. Io ho fatto i miei errori e ho pagato, ma il pallone resterà sempre una cosa pulita. In tutto il mondo, i suoi tifosi finiscono per perdonargli tutto. Il ricordo che avranno sarà sempre quello di una leggenda, di un mito. Non ricorderanno l'uomo.